Capitolo 28. Lo zio e le due zie erano in salotto quando Fanny vi entrò. A Sir Thomas ella si presentò come un interessante oggetto di osservazione. Ne constatò con piacere la generale eleganza e si rese conto che era particolarmente bella. Il gusto e la semplicità dell'abito fu quanto volle approvare in sua presenza, ma quando poco dopo essa uscì dalla stanza si compiacque ad alta voce della sua bellezza, alla quale tributò sentitissime lodi. «Sì», concordò Lady Bertram, «ha un ottimo aspetto, le ho mandato Chapman». «Un bel aspetto, oh sì», esclamò Mrs. Norris, «ha ogni motivo di avere un bel aspetto con tutti i vantaggi di cui gode. Allevata da questa famiglia come lo è stata, con il vantaggio di poter copiare i modi delle cugine. Pensi solo, mio caro Sir Thomas, quali straordinari vantaggi lei e io siamo stati in grado di darle. Lo stesso abito che lei ha notato con approvazione è un generoso regalo che lei le ha fatto in occasione del matrimonio della cara Mrs. Rushworth. Che cosa sarebbe stata se non l'avessimo cresciuta e guidata?» Sir Thomas non replicò, ma quando sedettero a tavola le occhiate del figlio e del nipote lo convinsero che l'argomento poteva delicatamente essere trattato con loro e con maggior successo quando le signore si fossero ritirate. Fanny si rese conto che la approvavano e la consapevolezza di meritarlo accrebbe la sua avvenenza. Per molti motivi si sentiva felice, e presto lo fu ancora di più, poiché mentre seguiva le zie fuori dalla stanza, Edmund, che teneva aperta la porta per farle uscire, disse, mentre lei gli passava davanti, «Devi ballare con me, Fanny, devi riservarmi due balli qualsiasi è piacer tuo, eccetto il primo». Non le restava altro da desiderare. In tutta la sua vita non si era mai trovata in uno stato così vicino all'euforia. L'allegria, altre volte dimostrata dalle cugine alla vigilia di un ballo, non la sorprendeva più. Sperimentava in prima persona quanto incanto avesse la cosa e si mise addirittura a ripassare le figure e i passi delle varie danze mentre era al sicuro dagli sguardi della zia Norris, occupatissima prima a risistemare e poi a rovinare la perfetta disposizione dei ceppi che il maggiordomo aveva preparato nel caminetto. Seguì una mezz'ora che sarebbe stata senz'altro uggiosa in qualsiasi altra circostanza, ma la felicità di Fanny non ne fu intaccata. Bastava ripensare alla sua conversazione con Edmund. E cos'era l'irrequietezza di Mrs. Norris? Cos'erano gli sbadigli di Lady Bertram? I signori le raggiunsero e subito dopo, in un'atmosfera di benessere e di distensione, ebbe inizio la piacevole attesa della prima carrozza. Tutti erano intenti a ridere e a conversare e ogni attimo apportava nuova gioia e speranza. Fanny sentiva che Edmund si sforzava di apparire allegro, ma era lieta di vedere che ci riusciva e con successo. Quando si udirono finalmente le carrozze, quando gli ospiti incominciarono a radunarsi, la sua letizia diminuì sensibilmente e la vista di tanti estranei la indusse a ritirarsi in se stessa. Oltre la gravità e l'etichetta che dominava nel grande circolo degli adulti, che né i modi di Sir Thomas né quelli di Lady Bertram erano i più atti a dissipare, si trovò ad affrontare di quando in quando qualcosa di peggio, giacché lo zio la chiamò per presentarla agli uni e agli altri e in questi casi fu costretta a sentirsi rivolgere la parola, a fare la riverenza e a parlare a sua volta. Questo era per lei un ben duro dovere e non vi era mai chiamata senza cercare con gli occhi William che, con tutta disinvoltura, girava qua e là sullo sfondo della scena, desiderando ardentemente di starsene in sua compagnia. L'ingresso dei Grant e dei Crawford fu propizio. Quel tanto di formale che aveva avuto la riunione si dissolse subito grazie ai loro modi aperti e cordiali e alla più intima conoscenza che avevano dei vari invitati. Si formarono piccoli gruppi e ciascuno si sentì più a proprio agio. Anche Fanny risentì della generale distensione e, sottraendosi ai doveri impostile dall'etichetta, sarebbe stata di nuovo perfettamente contenta se avesse potuto impedire ai suoi occhi di posarsi su Edmund e Mary Crawford. Lei era affascinante e non era forse prevedibile la conclusione di quel nuovo incontro. Le sue fantasticherie furono interrotte dal vedersi comparire dinanzi Mr. Crawford e i suoi pensieri presero un'altra direzione quando lui, quasi sui due piedi, l'impegnò per i due primi balli. La sua contentezza in questa occasione fu in parte annullata, come spesso avviene ai comuni mortali. Assicurarsi un cavaliere prima dell'inizio delle danze era un bene assolutamente essenziale, poiché il momento dell'apertura del ballo era ormai imminente e lei capiva così poco quali fossero i suoi diritti di pupilla dei padroni di casa da pensare che se Mr. Crawford non l'avesse invitata sarebbe stata l'ultima fra tutte a essere ricercata e che le avrebbero trovato un cavaliere solamente grazie ad una serie di richieste, inchieste e complesse interferenze, tutte cose assolutamente terribili. Ma contemporaneamente vi era un che di sottinteso nel modo in cui egli la invitava che non le piacque. E notò che i suoi occhi, per un momento, si posavano sorridendo sulla collana, o perlomeno pensò che in essi vi fosse un sorriso, e ciò la fece arrossire e le diede un senso di profondo disagio. E benché nessun nuovo sguardo venisse a turbarla, benché il proposito di Mr. Crawford sembrasse essere diretto solo a compiacerla, non poté vincere l'imbarazzo, accresciuto inoltre dalla sensazione che questo non gli sfuggisse e non si riprese finché egli non si distolse per parlare con qualcun altro. Allora si sentì più libera e poté assaporare la genuina soddisfazione di avere un cavaliere venuto a lei spontaneamente, garantitole prima che il ballo si aprisse. Mentre la compagnia muoveva verso la sala da ballo, si trovò per la prima volta vicino a Miss Crawford, i cui occhi e il cui sorriso furono immediatamente e più inequivocabilmente rivolti là dove si erano posati quelli del fratello. Capì che stava per entrare in argomento e, ansiosa di chiarire ogni cosa, si affrettò a spiegare da dove veniva la seconda collana, la vera catena. Miss Crawford ascoltò e tutti i complimenti e le insinuazioni che aveva inteso rivolgere a Fanny furono dimenticati. Recepì un'unica cosa e i suoi occhi, già così splendenti, lo divennero ancora di più mentre esclamava con acceso piacere: Davvero? Edmund? Oh, è proprio da lui. Nessun altro uomo vi avrebbe pensato. Lo stimo oltre ogni dire. E si guardò in giro, come ansiosa di dirlo a lui. Non era vicino, stava ascoltando un gruppo di signore fuori della stanza e poiché Mrs. Grant, avvicinatasi alle due giovani, le prese a braccetto, tutte e tre seguirono gli altri. Fanny si era sentita mancare il cuore, ma non ebbe tempo nemmeno per riflettere sui sentimenti di Miss Crawford. Erano ormai nella sala da ballo e i violini incominciavano a suonare e lei era in preda a una così gioiosa eccitazione che le era impossibile fissare la mente seriamente su qualsivoglia cosa. Doveva osservare come si disponevano le coppie e vedere come ogni cosa andava fatta. Di lì a pochi minuti Sir Thomas venne da lei e le chiese se era impegnata. Il suo sì, signore, con Mr. Crawford era proprio quello che egli aveva desiderato udire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas lo accompagnò da lei e le parole che gli rivolse rivelarono a Fanny che lei doveva prendere posto per prima e aprire il ballo. Un'idea che non le si era mai affacciata alla mente. Tutte le volte che aveva pensato ai minuti particolari della serata aveva dato per scontato che Edmund avrebbe aperto il ballo con Miss Crawford e la sorpresa fu così grande che, sebbene fosse lo zio a dirle il contrario, non seppe reprimere un'esclamazione di sorpresa, un accenno alla sua inadeguatezza e perfino una supplica a venire dispensata da un simile onore. Che osasse opporre la sua opinione a quella di Sir Thomas era prova sufficiente dell'eccezionalità del caso, ma tale fu l'orrore che Fanny provò solo a sentirvi accennare, che riuscì addirittura a fissare lo zio negli occhi e a dire che sperava che la cosa potesse essere sistemata altrimenti. Tutto inutile. Sir Thomas dapprima sorrise, tentò di incoraggiarla, poi prese un'espressione estremamente seria e disse: Deve essere così, mia cara, con tono troppo deciso perché lei si azzardasse ad aggiungere parola, e l'istante dopo si trovò guidata da Mr. Crawford in capo alla sala e rimase ritta là in attesa di essere raggiunta dagli altri ballerini a mano che si formavano le coppie. Quasi non poteva credere a se stessa, avere la precedenza su eleganti giovani donne. L'onore era troppo grande, equivaleva al trattarla alla stregua delle cugine. E il suo pensiero volò a quelle cugine assenti con uno slancio sincero e veramente tenero, rimpiangendo che non fossero a casa per occupare il posto suo nella sala e prendere la loro parte in uno svago che avrebbero tanto gustato. Così spesso le aveva udite desiderare che si desse un ballo in casa e parlarne come della più grande delle felicità e che loro fossero assenti quando veniva finalmente dato, che fosse lei ad aprirlo e con Mr. Crawford per giunta. Sperò che ormai non avessero da invidiarle quel privilegio, ma quando ripensava allo stato delle cose nello scorso autunno, a quello che tutti loro erano stati l'uno per l'altro quando lei aveva ballato in quella stessa casa per la prima volta. Quasi non riusciva a capire come si fosse resa possibile l'attuale combinazione. Il ballo incominciò. L'onore fu più grande che piacevole per Fanny, almeno durante la prima danza, e il suo cavaliere era pieno di brio e tentava di infonderglielo, ma lei era troppo spaventata per provare un vero piacere, almeno fino a quando le fu possibile supporre di non essere più osservata. Ma giovane, graziosa e gentile nel portamento qual era, in lei il lieve impaccio aggiungeva grazia ed erano ben poche le persone presenti che non fossero disposte a lodarla. Era attraente, era modesta, era la nipote di Sir Thomas e ben presto corse voce che era ammirata da Mr. Crawford. Tutte cose più che sufficienti per meritarle il favore generale. Anche Sir Thomas osservava il suo incedere nelle figure a passo di danza e si sentiva molto compiaciuto. Era orgoglioso della nipote e senza attribuirne tutta la bellezza, come sembrava fare Mr. Norris al suo essere cresciuto a Mansfield, era soddisfatto sapendo di avere contribuito a tutto il resto, la cultura e le maniere le doveva a lui. Miss Crawford intuiva molti dei pensieri che attraversavano la mente di Sir Thomas mentre se ne stava ritto a osservare e poiché, a dispetto di tutti i torti che gli addebitava, prevaleva in lei il desiderio di essergli gradita, colse l'occasione per avvicinarlo e dirgli qualcosa di piacevole su Fanny. La lode fu calorosa ed egli la colse come lei aveva desiderato, unendovisi fin dove la discrezione, la cortesia e la lentezza di eloquio che gli erano proprie lo permettevano. E certamente, mostrandosi più a suo agio su quell'argomento di quanto fece sua moglie subito dopo, quando Mary, scorgendola su un sofà vicino, si rivolse a lei durante una pausa per congratularsi dell'aspetto di Miss Price. «Sì, sta veramente molto bene», fu la placida risposta di Lady Bertram. Chapman l'ha aiutata a vestirsi. Non che non le facesse un vero piacere che Fanny fosse ammirata, ma era talmente compresa dalla propria bontà nell'averle mandato Chapman che non poteva tacere la cosa. Miss Crawford conosceva troppo bene Mrs. Norris per pensare di far piacere a lei lodando Fanny, perciò quando se ne offrì l'occasione le disse «Ah, signora, quanto ci mancano la cara Mrs. Rushworth e Julia questa sera». E Mrs. Norris la ripagò con tutti i sorrisi e tutte le parole cortesi per le quali trovò tempo, in mezzo alle numerosissime incombenze che si era attribuita nell'organizzare tavolini da gioco, dar suggerimenti a Sir Thomas e tentare di spostare tutte le signore che facevano da chaperon verso quello che secondo lei era il punto migliore della sala. Ma con Fanny, Miss Crawford sbagliò nel tentativo di compiacerla. Voleva dare al suo cuoricino un palpito di felicità, voleva pagarla facendola sentire ammirata e importante e fraintendendo la causa del rossore che le accendeva il volto. L'avvicinò dopo le due prime danze e disse con uno sguardo significativo «Forse lei mi saprà dire perché mio fratello vada in città domani, dice che ha da fare là ma non vuole rivelarmi di che si tratti. È la prima volta che mi nega la sua fiducia, ma questo è quanto spetta a tutte noi sorelle». Tutte veniamo soppiantate presto o tardi. Ora a me tocca rivolgermi a lei per avere informazioni. Per favore mi dica perché Harry va a Londra. Fanny protestò la propria ignoranza con tutta la fermezza che l'imbarazzo le consentiva. Ebbene allora, replicò Miss Crawford ridendo, devo pensare che sia puramente per il piacere di accompagnare suo fratello e parlare di lei lungo il viaggio. Fanny rimase confusa, ma era una confusione piena di scontento, e intanto Miss Crawford, meravigliandosi che non sorridesse, pensava che fosse o troppo ansiosa o addirittura strana, tutto tranne che insensibile alle attenzioni di Harry. In complesso, Fanny trascorse una piacevolissima serata, ma con ciò le attenzioni di Harry ebbero assai poco a che fare. Avrebbe senz'altro preferito che non la invitasse nuovamente dopo un brevissimo intervallo e avrebbe voluto non dover sospettare che le domande da lui rivolte a Mrs. Norris sull'ora della cena fossero state formulate al fine di assicurarsi lei, Fanny, come dama per quella parte della serata, ma non poté impedirsi di pensarlo. Egli le faceva capire che lei era l'unico oggetto del suo interesse, anche se si comportava con la debita discrezione. Lei non poteva dire che vi fosse mancanza di delicatezza o una qualche ostentazione nei suoi modi e, a volte, quando parlava di William, addirittura non le dispiaceva. Anzi, doveva riconoscere che lo faceva con un calore di sentimento che tornava a suo credito, eppure anche così quelle attenzioni non contribuivano a darle piacere. Era felice ogni volta che posava gli occhi su William e vedeva con quanto abbandono si stava divertendo. Era felice quando per 5 minuti poteva muovere qualche passo con lui e udirlo descrivere le sue dame. Era felice di sentirsi ammirata ed era felice di essere ancora in attesa delle due danze con Edmund, un'attesa che si prolungò per quasi tutta la serata, perché gli inviti che piovevano continui e insistenti da parte dei cavalieri la costringevano a posporre l'impegno preso con lui. E fu felice anche quando alla fine venne il momento delle due danze, ma non certo perché ritrovasse in lui lo stesso slancio e la stessa tenera galanteria che la mattina l'avevano colmata di gioia. Era spento, esausto, e se Fanny si sentì felice fu perché sapeva di essere l'amica con la quale egli poteva trovare una pausa di riposo. «Sono spossato a furia di dover fare cortesie», disse. «Ho parlato incessantemente per tutta la serata senza avere niente da dire. Ma con te, Fanny, ci si può finalmente mettere in pace. Non esigi che ti si parli. Prendiamoci il lusso di stare in silenzio». Non era necessario che Fanny esprimesse il suo assenso a parole, una stanchezza che in gran parte nasceva probabilmente proprio dai sentimenti che gliele aveva rivelato quella stessa mattina, meritava rispetto più di ogni altra. Così procedettero attraverso le figure dei loro due balli con tanta composta tranquillità da convincere chi che sia che Sir Thomas non aveva certo educato una moglie per il figlio cadetto. La serata aveva dato a Edmund poco piacere. Miss Crawford era stata di umore allegro quando avevano ballato insieme la prima volta, ma non era l'allegria di lei che poteva fargli bene. Anzi, contribuì più a deprimere che a sollevare il suo morale, e in seguito, quando l'aveva ricercata nuovamente, ella lo aveva profondamente rattristato col suo modo di esprimersi sulla professione che gli era sul punto di intraprendere. Avevano parlato intramezzando pause di silenzio, lui aveva ragionato, lei aveva volto in burletta ogni cosa e alla fine si erano separati con mutua irritazione. Fanny, incapace di astenersi completamente dall'osservarli, aveva visto abbastanza da sentirsi alquanto soddisfatta. Era cosa crudele essere contenta mentre Edmund soffriva, eppure una inevitabile felicità derivava dalla convinzione stessa che egli soffriva. Quando le due danze con lui furono concluse, il suo desiderio di ballare ancora e la sua resistenza fisica erano pressoché esauriti. E Sir Thomas, notando che senza fiato e con la mano abbandonata lungo in fianco, abbozzava le figure più di quanto danzasse veramente, mentre la prima parte del ballo si avviava alla fine, le comandò di starsene seduta. Da quel momento anche Mr. Crawford rimase seduto. «Povera Fanny!» esclamò William, venendole vicino per un momento, agitando il ventaglio della propria dama con impegno, come se si trattasse di vita o di morte. «Ma dico, il divertimento è appena incominciato. Spero che continueremo ancora per almeno 2 ore. Come puoi essere stanca così presto?» «Così presto, amico mio», disse Sir Thomas, tirando fuori l'orologio con la necessaria discrezione. «Sono le 3 e tua sorella non è abituata a fare ore simili». Ebbene, Fanny, non è necessario che ti alzi domattina prima che io parta. Dormi più a lungo che puoi e non badare a me. Oh, William. Come? Pensava di alzarsi prima della tua partenza? Oh, sì, signore, esclamò Fanny alzandosi di slancio per portarsi più vicino allo zio. Devo alzarmi a far colazione con lui. Sarà l'ultima volta, sa? Sarà l'ultima mattina. È meglio di no. Per le 9:30 dovrà aver fatto colazione ed essere pronto a partire. Mr. Crawford, se ho ben capito, lei passerà a prenderlo alle 9:30. Ma Fanny insistette tanto, i suoi occhi erano così pieni di lacrime che a Sir Thomas non fu possibile insistere sulla proibizione, per cui la cosa finì con un bene, bene, che equivaleva a un consenso. Sì, alle 9:30, disse Crawford a William, mentre quest'ultimo li lasciava, e sarò puntuale, visto che io non avrò un'affettuosa sorella che si alzi per me. E a voce più bassa, a Fanny, avrò solo una casa apparentemente deserta da cui allontanarmi. Suo fratello troverà le mie idee sul tempo assai diverse dalle sue, domani. Dopo una breve riflessione, Sir Thomas invitò Crawford a fare la prima colazione al park, piuttosto che sedere a un tavolo da solo alla canonica. Sarebbe stato presente anche lui, e la prontezza con cui l'invito fu accettato lo convinse che l'intuizione, dalla quale il progetto stesso del ballo era in massima parte scaturito, lo ammetteva, corrispondeva a realtà. Mr. Crawford era innamorato di Fanny e si abbandonò alla piacevole previsione di quanto sarebbe seguito, anche se la nipote non lo ringraziò per sua iniziativa. Aveva sperato di avere William tutto per sé in quell'ultima mattina. Le avrebbe fatto un indicibile piacere. Ma benché quel suo intimo desiderio fosse stato contrariato, non se ne adontò, anzi, era così poco abituata a veder consultare i suoi gusti o a vedere le cose realizzarsi secondo i suoi desideri, che era più incline a meravigliarsi e a rallegrarsi di averla avuta vinta su un punto che a immalinconirsi per quanto di contrariante era seguito. Poco dopo, Sir Thomas interferì di nuovo con quanto lei preferiva, consigliandole di andare immediatamente a letto. Consigliare fu la parola che gli usò. Ma si trattava del consiglio di chi aveva potere assoluto e lei non poté fare altro che alzarsi e, accompagnata dal cordialissimo addio di Mr. Crawford, attraversare quietamente la sala. Si fermò sulla soglia, come la signora di Branksome Hall, un istante e non di più, per inquadrare il gaio spettacolo e gettare un ultimo sguardo alle 5 o 6 coppie che ancora erano in piena attività e poi salì lentamente la scalinata, inseguita dall'incessante ritmo della contraddanza che si intrecciava a febbrili speranze e timori, sazia di cibo e di vino caldo, coi piedi doloranti, stanca, irrequieta e agitata, eppure conscia, a dispetto di tutto ciò, che un ballo è una cosa deliziosa. Da parte sua, mandandola via come aveva fatto, Sir Thomas non aveva solamente pensato alla sua salute. Poteva essergli venuto in mente che Mr. Crawford le era rimasto vicino abbastanza a lungo. Forse aveva inteso raccomandarla come sposa, dando la dimostrazione di quanto fosse pronta a lasciarsi docilmente persuadere.